le sconce di amori sbocciati per caso, lasciarsi senza un avvocato solo gioia, ma considera che tutto può finire, lo sai che mi deprimo ma con stile, il DJ da una radio dice che fa bene cantare, ma chi ha mai saputo cantare, considera che tutto può fiorire, ma in fondo stare insieme questa sera cos'è? Una manciata di stelle davanti a questo disordine. D'accordo tutti, sensi di colpa da eliminare, peccare senza farsi male, solo gioia, ma considera che tutto può finire, lo sai che mi deprimo ma con stile, il DJ da una radio dice che fa bene cantare, ma chi ha mai saputo cantare, considera che tutto può fiorire, ma in fondo stare insieme questa sera cos'è? Una manciata di stelle davanti a questo disordine. Tu considera se puoi. Disordine.